Non è entrato. Benvenuti! Episodio 125. Come sono Jacopo e Andrea? E registriamo una Io. puntata su un film che Madonna, guarda. non so perché ho guardato, ma alla fine ho riso tanto, quindi va bene. Il film in questione è Old, che è l'ultimo lungometraggio di Shyamalan. M. Night Shyamalan, il regista dei twistoni finali, e film senza twistone finale. Oh no, spoiler. Spoiler. Allora, è difficile sempre fare una puntata su un film di Shyamalan perché è ricco di twistoni. Paradossalmente, questo film ha meno twistoni del solito, quindi potrebbe essere più semplice registrarlo. Adesso proviamo a dire qualcosa della trama, cioè prova a dire qualcosa della trama e poi vediamo, senza fare spoiler, così se lo volete vedere, visto che è un film piuttosto recente, è uscito poco fa, 2021, e il film ha molti attori più o meno famosi, e Gael García Bernal è uno dei protagonisti. E che ha fatto, che è un regista, cioè sì, buonanotte, sì, è anche un regista, ma è un attore messicano e famoso per, non saprei, forse Diario della Motocicletta o forse la serie TV di Prime, come si chiama? Mozart in the Jungle, credo. Però in realtà lui ha fatto veramente tanti film. Non so, in realtà io ho visto poco, però sì, è abbastanza famoso. E anche poi c'è Vicky Krieps, non so chi sia. Anche lei è abbastanza famosa, ma non tantissimo. Tra l'altro io di lei non ho visto quasi una sega. Chi altro c'è? Rufus Sewell, che era anche in The Father ed era anche in un sacco di film orrendi tipo Gods of Egypt, tra l'altro interpreta un personaggio molto bello ed è molto bravo. Beh, lui è quello dell'ultimo, no, il destino di un cavaliere. Penso di Sì, sì. dai, era lui. Beh, Sì, penso di sì. Ha fatto veramente un botto di roba lui in realtà. L'ultimo film che abbiamo fatto in cui c'era lui è The Father, in cui mi pare che faccia il ah, il marito marito. di lei, sì. È vero. Poi c'è Ken Leung, che è Lui è quello. davvero dappertutto. Sì, che vabbè, era in Star Wars, era in X-Men, in Inside Man, ha fatto veramente un botto di roba anche lui. Lost, ragazzi. Non Lost, sì. dimentichiamoci di Lost. C'è la modella è Abby Lee, che fa la modella Abby Lee, anche nel film. E poi Vabbè, no, c'è. è quella di cosa, no? Di Lovecraft Country. Sì, esatto, è quella di Esatto. Lovecraft Country, sì. Però qua fa praticamente la modella. Poi c'è Alex Wolff, che ormai fa tipo 50 film l'anno, non so come cazzo faccia. E tra l'altro qua è un po' sprecato, secondo me. E anche se, cioè non è male, però non so, l'abbiamo visto recitare cose migliori, secondo me. E tipo Tipo Big, Jumanji. cazzo. Tipo Pig, no? Avrei detto Jumanji, ma sì, va bene lo stesso. E chi altro c'è di famoso? Io non conosco Mackenzie, quella di Sì, esatto. Jojo e Esatto. Last Night in Soho. E c'è anche un attore svedese, è abbastanza famoso, ma in realtà solo, cioè non so, io l'ho visto da qualche parte, ma non mi ricordo dove. È Gustav Hammerstein, che ha una faccia Faccia abbastanza, conosciuta. esatto, abbastanza conosciuta. Chi cazzo è? E poi c'è lo stesso Shyamalan che interpreta un personaggio perché lui è il nuovo Hitchcock della filmografia americana. E il film è andato abbastanza bene, nel senso che è costato sui 16. No, quanto cazzo è costato? Non mi ricordo. Fatto sta che ha fatto qualcosa tipo 90 milioni, un po' forse il nome suo, un po' forse perché comunque è intrigante la trama. E il film dovrebbe essere un film horror, ma in realtà non lo è, cioè è più un horror alla Shyamalan, quindi è tipo un thriller con molta suspense. Parla di questa famiglia, di insomma padre, madre e due figli, che si ritrova a passare una vacanza in un resort super figo. La backstory di questa famiglia è che i due genitori vogliono divorziare, non si capisce per quale motivo, ma insomma si capisce che, cioè loro lo dicono tra di loro e litigano tra di loro e vogliono divorziare, ma hanno deciso di fare quest'ultima vacanza con i figli. Il resort è molto molto fighetto, ma è, diciamo, a quanto pare loro hanno avuto questa botta di culo per poterselo permettere. Queste sono le premesse di qualsiasi film che andrà a finire di merda, ovviamente. Insomma, il secondo giorno il direttore di questo hotel gli dice che loro sono stati selezionati perché, insomma, gli stanno particolarmente simpatici, a quanto pare. Per andare a visitare, a passare una giornata, una sorta di escursione in una cala, in una spiaggia all'interno dell'isola, privata e non conosciuta bene, e quindi si ritrovano in questa sorta di paradiso in cui saranno solo loro e pochi altri ospiti selezionati, e in cui promette una fantastica giornata di mare. Arrivano lì insieme ad altri ospiti e si accorgono subito che c'è qualcosa che non va. E penso sia anche nel trailer, non vorrei dire una cazzata. Sì, non è uno spoiler, cioè succede Insomma, loro subito. scoprono che stanno invecchiando. Beh, più velocemente del normale. Credibile. Stanno invecchiando molto più velocemente del normale. E in realtà, cioè non credo ci sia nient'altro nel trailer, ma non c'è nient'altro neanche nel film, onestamente, però sì. E questo è, diciamo, è l'incipit narrativo. Tutto il film, praticamente tutto il film è ambientato in questa spiaggia, ed è ambientato, e i personaggi in questione, cioè gli attori che abbiamo... Che ho citato sono praticamente gli unici attori che appaiono, sono poche comparse perché appunto è tutto ambientato tra di loro. Una sorta di vabbè, è una sorta di location molto, molto chiusa e molto piccola. E in realtà non c'è molto altro da dire nella trama. Aspettatevi twistoni, ma secondo me meno del normale. Però adesso abbasso le aspettative così magari vi piace. E a me personalmente. Io ho avuto un problema con questo film, nel senso che l'ho visto in treno e pensavo fosse un film, cioè pensavo che fosse un prodotto simile a The Servant, che mi è piaciuto molto perché è lo stesso regista, perché è il suo stesso concetto. In realtà vorrebbe esserlo, perché ovviamente lui gioca sempre sulla suspense, però ci sono delle cose abbastanza... E tra l'altro io ero abbastanza preoccupato perché... Insomma, non guardo molti film del genere, quindi avevo paura di cagarmi sotto, comunque di farmi venire un infarto mentre lo guardavo. In realtà, secondo me ha un problema, nel senso che la parte di suspense, tra virgolette, è molto troppo veloce. E non so, sarà per quello, sarà perché insomma l'ho guardato nel modo sbagliato, però io ho letteralmente riso da solo in mezzo al treno. Perché succedono troppe cose tutte insieme e sono molto surreali e quindi non lo so, cioè paradossalmente a mio parere se lui si fosse preso più tempo avesse tagliato un po' di avvenimenti ma anche un po' di personaggi per dire all'interno magari ci sarebbe stato più il tempo di farsi venire un po' di ansia, ma così succedono veramente tutte le cose tutte insieme. E si sente praticamente gente che urla da un lato all'altro della spiaggia contemporaneamente, fa abbastanza ridere come cosa perché succedono cose surreali e diciamo l'invecchiamento è visto in tutti i modi possibili e alcune cose tutte insieme fanno molto ridere, almeno a me. E Che dire, non so se sono un sociopatico, non so cosa ne pensate voi, però insomma questo è il mio parere sul film. Molti attori sono molto bravi e probabilmente, non so, hanno reso il film più bello, cioè hanno aiutato a rendere il film più bello. È ovvio che giocandosi molto sugli attori, la psicologia e poco su azione o cose che fanno o cose, tra virgolette, ambientali, è molto sulla loro interpretazione, è molto su quello che loro provano, quello che loro vedono rispetto all'invecchiamento, eccetera, eccetera, alla crescita, eccetera, al tempo, alla vita e tutto quanto. E quindi è importante che gli attori siano bravi. Secondo me, io ho visto poche pecche, cioè loro non è stato un problema di attori dal mio punto di vista, è stato più un problema che era tutto insieme, tutto contemporaneamente. Non ho avuto il tempo di avere suspense, ma cioè di generare un climax qualcosa, ma era più una risata dietro l'altra di cose che succedevano. E basta, detto questo, ditemi voi. Andrea. No, non so, in realtà sono pienamente d'accordo con Salla. Cioè, la suspense viene proprio a mancare al momento che le azioni, cioè lo svolgimento è veramente troppo veloce e questo mi ha dato molto fastidio, però non lo so, qualcosa è salvabile, diciamo. Non No, ma è le proprio idee tutta da secondo me buttare. piacciono, cioè nel Sì. senso, le idee secondo me sono tutte buone, cioè ci stanno Sì. tutte. Fosse stata una serie TV, magari avrebbe anche avuto il tempo di coltivarle meglio, ma così sono veramente tutte insieme. Sì, completamente d'accordo. Jacopino invece adesso tirerà merda a parate. Preparatevi. Io oggi, appena Andrea è entrato in chiamata, io ho detto, io ho capito che aveva visto Old sentendo il suo sospiro, gli ho detto: Andrea, io non sono bravo a scrivere dialoghi e infatti non li scrivo. Ma in realtà lui non è così. Non è che, allora, non è che uno deve fare solo quello che è bravo a fare, per carità, si vede che lui ha passione, cioè Shyamalan l'hanno un po' fregato, vabbè non dico il suo nome bene, l'hanno un po' fregato a chiamarlo il prossimo Spielberg e secondo me hanno un po' alzato troppe le aspettative perché ogni tanto se ne esce fuori con un film secondo me geniale, anche per le sue, diciamo, abilità, tipo secondo me The Visit, mi è piaciuto tantissimo quel film. Ma continua a fare lo stesso film e continua a fare gli stessi errori, cioè continua a mettersi per forza in una parte di recitazione e lui non sa recitare, continua a scrivere i suoi dialoghi e lui non li sa scrivere, cioè che problema c'è a chiedere a un dialoghista di aiutarti? Cioè, se sei bravo a creare un soggetto, avere un'idea per una Ma infatti sceneggiatura, l'idea è veramente a carina. me piace, io poi ho avuto un sospetto che lui stesse parlando di altro, perché di solito lui vuole parlare di altro, cioè lui questa cosa di questo film in realtà ce l'ha sempre avuta, secondo me, come fissa. Però, infatti poi ho letto che qualcuno ha detto questo film in realtà è sulla pandemia, cioè nel senso è un film sull'essere sentirsi bloccati a invecchiare, a guardarsi mentre si invecchia, a tirare fuori delle, come posso dire, delle motivazioni per litigare, cioè è una spiegazione che sai quando dici ah, i critici si sono inventati sta cosa, cioè non sanno che cazzo dire, allora si inventano un motivo di sto film, però a me questa è sembrata perfetta, cioè è un film perfetto da pandemia, ma con dei cioè all'inizio del film quei due che litigano dice ah, tu pensi sempre al futuro, ma tu pensi sempre al passato, il tempo è il tema del film, cioè tutte le cose che si dicono sulla spiaggia, quello, il rapper che dice adesso vogliono essere neri. Cioè, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Cioè, Vabbè, quello, vabbè, sì. no, io vabbè, vi giuro, questo film volevo, cioè, farmelo piacere o non farmelo piacere. Come dice Salla, è una bella idea e tutto, è un'idea anche originale, si esplorano tante cose in poco tempo. Troppo Ma poco. troppo poco tempo e soprattutto troppo cringe nei dialoghi. La cosa che ti dirò, forse anche avrei un po' cambiato il finale, perché secondo me è un pochino troppo lungo la parte, diciamo, senza spoiler di epilogo, tra virgolette, no? Cioè, quella dopo, vabbè, siamo capiti. Cioè, è carino che lui si sia preso il tempo di fare un epilogo. D'altra parte, avrei potuto mettere più roba poi nel film invece che fare nell'epilogo, nel senso che il film ha palesemente bisogno di tempo e lui invece si è allungato solo alla fine, però sì. Avrei preferito che facesse un po' alla Shyamalan, ovvero che chiudesse il film magari con un po' più di mistero, nel senso che sì, ti dà gli indizi per capire cosa è successo, ti fa vedere cosa succede dopo, ma non è che ti spiega tutto e ci mette 15 minuti a spiegarti tutto per filo e per segno, e cioè tutto quel discorso, boh, nel senso, beh, poi lì anche quello dialogo, quindi. Però sì, come dici tu, quei 15 minuti magari potevano diventare 5 e avevi 10 minuti in più per esplorare un pochino meglio la parte principale del film, quella più importante, insomma. Ma io poi Beccato. venivo da The Servant che, ripeto, secondo me la prima stagione è molto più bella, è molto bella e lì è una serie TV, lui si è preso il tempo di fare le sue cazzatine di suspense e quindi ci sta, cioè ti tiene un po' sveglio. Qua c'è troppa roba, c'è veramente tanta, tanta, tanta roba. E forse è il primo film di, non lo so in realtà, in cui gli stessi attori si accorgono a metà film di che cosa sta succedendo e di che cos'è E quasi questo. subito, è vero. Che è una roba strana per lui, è una roba normale per un film, però anche quello, cioè, io me l'aspetto dopo di scena finale, dai. Io no, nel senso, in questo film per fortuna ha leggermente rotto la forma, diciamo che il colpo di scena finale non è un colpo di scena, è più una specie di spiegazione di chiusura che di colpo di scena, no? Nel senso, Eh sì. è solamente per dare un contesto a quello che è successo, non per farti dire ah, ti ho fregato. E l'ho apprezzato per una volta, effettivamente. Ma in realtà, questo, come dire, è il miglior tipo di colpo di scena che fa nei suoi film, perché lo ha già fatto anche in The Visit, senza dire cosa. E anche nel stesso senso, se ci pensi, alla fine il colpo di scena non era per fregarti, ma era per spiegare tante piccole cose che Sì, sì, c'erano sì. prima. Invece magari, cioè, ci sono alcuni film dove il colpo di scena mi sembra proprio, ah, capito? Tipo, Beh, tipo. in realtà, come cazzo si chiama? Il primo della trilogia di sti cazzi. Unbreakable si chiama, credo. Lì il finale è un mini spiegone, ma è molto twist, cioè nel senso che è molto in genere ed è molto un twistone. In The Servant, per esempio, non c'è. In The Servant ti dà tanti indizi, però non ti dice mai, guarda, è così la storia. Il che è molto figo, tra l'altro. Ma non so neanche se l'ha scritta lui la sceneggiatura a sto punto. Forse i dialoghi no, Oh no. no, non so. È che di solito c'è il colpo di scena. A me non piacciono i colpi di scena tipo, cioè, allora Ah no, lui è solo regista, non è lo ho scusami, non è apprezzato lo perché, sceneggiatore. ok, perfetto. Ho apprezzato perché non, cioè, non me l'aspettavo. Però ripensandoci, mi fa schifo il colpo di scena di Split. Non l'ho visto. Ve lo spoilero perché ve lo voglio rovinare. È un bellissimo film, guardatelo, cioè nel senso, no, un bellissimo film, è uno dei suoi film migliori e a me è piaciuto, però anche lì dipende, cioè, posso capire se non mi piace, è quel film dove c'è James McAvoy che aveva tipo 23 personalità Sì. diverse e credo che si chiami Split. Vabbè, Sì, comunque è split. nel Poi il terzo finale, è Glass. esatto, nel finale scopri che quello era il secondo della trilogia, cioè che era lo stesso universo di Unbreakable, perché non esisteva in quel momento ancora il concetto di trilogia di Sì. classe, Cioè, eccetera. Quindi, nella sua testa, diciamo, da quando l'ha fatto il primo, almeno lui ha detto così. quella scena non ha senso, non contestualizza un cazzo. Non, cioè, se non sai, se non conosci Unbreakable, non vuol dire un cazzo. No. Cioè, invece tu dici, ah, ok, cioè, nel senso, non è che... Vabbè, comunque... Niente, mi sono piaciuti i due tizi, comunque, i due attori protagonisti, La coppia, sì. nonostante, diciamo, i dialoghi, alla fine le scene con loro erano quelle che si seguivano di più come emozione, almeno alla fine, insomma, verso la fine del film. Ma infatti paradossalmente il più figo è Rufus Sewell perché i suoi dialoghi non hanno senso, ma ci sta che non abbiano senso. Si chiama Vero. quel film. Esatto. È vero, è vero. E vabbè, appunto, hai detto tu, bravi come al solito Alex Wolff e Thomasin McKenzie, ma non hanno avuto molto da fare, purtroppo. Eh no, anche perché fanno un pezzo piccolino, relativamente piccolo. Questo pure un pochino mi ha deluso, mi aspettavo un po' più di loro due. Dal trailer mi sembrava che almeno Wolff avesse più tempo sullo schermo, invece... Lei sì, cioè lei ha più Lei tempo sì, di lui. giustamente lei non invecchia mai, cioè l'hanno tenuta. Esatto, lei l'hanno tenuta tutta, quasi tutta il film. Da vecchia forse non è lei, o sì. No, non è lei. Da vecchi sono altri due. Invece Spoiler. lui interpreta solo una piccola parte diciamo, della crescita ed è una parte raccapricciante, a mio parere, che non poteva tranquillamente non mettere, secondo me. Secondo me ci sta, ripeto, ci sta sempre vedendo l'ottica come posso dire, del contesto, no? Cioè di quello che stava cercando di dire riguardo la pandemia, eccetera. Perché sì, cioè, se la guardi così da sola letteralmente è cioè, molto fuori posto il film. Sì. Molto, molto fuori posto. Devo dire che i suoi dialoghi messi in bocca ai bambini, più ci penso più hanno senso. Cioè, è vero che i bambini non parlano così, però Ma è io non ho anche vero che i capito. bambini non sa che cazzo vogliono dire, quindi, cioè... Ma io non ho capito perché lui chiede a tutti chi sono. Dici, cioè, dal punto di vista della sceneggiatura è chiaro, dici lui come Ma personaggio realistico? Non in lo so. realtà no, cioè dal punto di vista della sceneggiatura io non ho capito come esce fuori. Beh, almeno sai i nomi, hai un pretesto per Ah, farlo in quel senso, conoscere. credevo avesse invece un motivo di trama. Cioè, secondo te perché quello continua a ripetere io sono Jarin tutto il film? Nel senso, No, c'era un motivo, non lo so, vabbè. non lo so, cioè nel senso i suoi film in teoria dovrebbero dare indizi più o meno, tipo quello del tempo, tu guardi al passato e guardi al futuro, e perché lui fa l'assicuratore, lei lavora in un... Tra l'altro volevo dire una cosa, che tutti i mestieri delle persone nell'isola sono palesemente utili per quello che stanno facendo e questo non mi è piaciuto. Ok. Nel senso, non c'è un tizio inutile lì dentro. Cioè, se ci fosse un biotecnologo lì dentro, che cazzo direbbe? Tipo, è bello il mare. Cioè, perché ognuno deve avere un cazzo di ruolo da un punto di vista di... È come se fosse una piccola società in cui ognuno di loro deve dire qualcosa. Il rapper addirittura è diventato un filosofo a questo punto. Palla, mi piacciono i tuoi paletti, bravo. Questo è il mio limite, se vai oltre. Sempre sfidabile. No, vabbè, nel senso, cioè, è abbastanza. Nel senso, loro hanno un motivo per essere lì, ma le loro professioni no, è questo che voglio dire. Sì, vengono Sì, selezionati sì. per. Cioè, tu dici loro come. Vabbè, non posso Loro come dirlo. persone hanno un Sì, motivo di essere lì, sì, ma non per le professioni che fanno. Quindi, perché le professioni che fanno sono palesemente quelle che sì. servono in quel contesto? Anche se devo dire che la psicologa è tanta roba, perché strippa di brutto ed è bellissima. Palla, ma tu sai scrivere sceneggiature? No, Hai ma te non le ragione. scrivi? No, allora, diciamo che da un punto di vista di trama è molto carino che tutto venga decorato dal fatto che appunto loro descrivano le cose perché loro fanno quel lavoro lì, cioè ognuno di loro fa il lavoro che fa a casa sua, ma a quanto pare è un autistico e quindi sa fare quel lavoro e basta e non altro. Cioè non c'è uno che ha l'hobby per la fotografia per dire, dice, ah, verrebbe una bella foto qua, oppure, ah, quando la pellicola si dissolve per la vecchiaia, cioè no, c'è quello che fa l'assicuratore che deve comunque calcolare le probabilità di quello che sta succedendo, cioè ti sembra normale. Vabbè, comunque. Salla, cioè. No, no, avete ragione, basta, non mi devo fissare su sti dettagli stupidi, quando il film ha altri problemi. No, stavo dicendo un'altra roba che non mi... Ah, no, nel senso, appunto, quando dice tu guardi al passato e guardi al futuro, sono le cose tipiche sue. Cioè, lui mette i dialoghi, come dici tu, un po' grossolani, e in cui dissemina indizi su che cose che verranno fuori dopo. Il fatto che il bambino di merda sia autistico e chieda i nomi di tutti, invece no. Non è... Secondo me non è perché è autistico, cioè è solo una cosa che fanno i bambini, secondo lui. Ah, ok. E quindi cioè, ci sta come diciamo strumento per la trama, credo che fosse questo il motivo. Non voglio leggerci troppo, diciamo. No, va bene. Ah, che è una cosa abbastanza strana e che poi non ha alcun significato. Spoiler. Va bene. Balla. Dimmi. Che libro sto leggendo? Una domanda di merda, scusate. È vero che c'è quel dialogo lì? Non lo so. Vabbè, è per dire che non la conosce. Sto leggendo Krypton, Salla, ora mi conosci. Va bene. Jacopo, a che gioco sto giocando? Stai giocando a Battlefield 5. In modo sbagliato. In modo sbagliato perché hai giocato a Doom Eternal prima. Salla, io ti conosco. Conosco tutti i tuoi segreti. È vero. Vabbè, volevate aggiungere altro? No. Shyamalaya. Per favore. Ah, per favore. Tra l'altro, scusami, prima che tu dica quella cosa brutta su Shyamalaya... E lui è stato, in teoria, lui ha questo accordo con l'Universal, per cui lui ha carta bianca per fare questo film e un altro, quindi ne uscirà un altro suo. Ma sono contento, lui in realtà, cioè, nonostante successi altalenanti di critica, mi sa che ha quasi sempre fatto pari, almeno, o quasi sempre fatto pari come... Qua direi di sì, non so quanto sia costata la location, ma... Mi sa l'unico flop enorme leggendo i box office suoi è Lady in the Water. Tutti gli altri sono rientrati o ci hanno guadagnato, quindi... Ebbene, il giorno c'è pure un po' di... Secondo me... Però non so. No, io dico come incassi, come critica... Ah, come incassi, ok. Come critica, cioè lui ha fatto uno dei film peggiori della storia che è The Last Airbender. Ah, è vero! Ha fatto After Earth, cioè lui comunque, ripeto, come critica è altalenante, però sono contento, cioè sono contentissimo che The Visit sia costato 5 milioni e ne abbia incassati 100, perché veramente a me è piaciuto parecchio, e quindi sono contento se ha sto contratto, ma un contratto tipo, cioè direttamente fai quello che vuoi o è tipo... Penso di sì, cioè da quello che ho capito sì. È tipo, devi fare regista, sceneggiatore e produttore, i progetti sono i tuoi e non so adesso, cioè non so se ha dei paletti, però così a naso mi sembra che non ne abbia. Oh, pare 90 milioni sotto Covid, effettivamente hanno fatto una buona scommessa. Tra l'altro la sceneggiatura è tutto, lui l'ha scritta e l'ha programmata durante il Covid, quindi in realtà... Ha fatto un buon lavoro, cioè forse anche per quello che ha il tema è il Covid. Possibile. Oh, ho scoperto che nel 2016, dopo The Visit Split, gli hanno dato il premio Razzi, la redenzione dei razzi. Non so se sapete. Ah sì? Ma esiste la redenzione? Sì. Cioè lui aveva preso dei razzi per i film più brutti, cioè il peggior regista, peggior film, peggior sceneggiatura, non so per quali film, probabilmente per The Last After Earth. Ah, sì. E ora l'hanno redento nel 2016, si è redento e non ci dovrà. Comunque scusa, guardo adesso e è costato 18 milioni di dollari, si dice. Sì. Quindi in realtà non è rientrato, ne ha fatti molti di più. No, esatto, sì, tanta roba sotto Covid. Va bene, io ho una comunicazione da fare, si è finalmente conclusa la causa di Scarlett Johansson. E sorpresa, sorpresa, gli hanno dato dei soldi e quindi lavorerà ancora per la Disney. Che cosa incredibile, signore e signori. Mi piace che nel messaggio a Scarlett Johansson ha scritto: sono veramente contenta. Sono veramente contenta di poter continuare la mia collaborazione creativa. Ha scritto creati, solo Esatto. creativa con la Disney. E loro gli hanno risposto: siamo molto contenti della tua collaborazione creativa, mi sa. No, allora hanno scritto una cosa più generica, mi Sì, sa. sì. Meno frecciatina. Sì, nel frattempo Black Widow è uscito su Disney Plus. Se qualcuno, per Ah, è qualche vero, sì, non motivo, guardatelo, ma se lo volete. guarda. Guardatelo, sì, però. Com'è? Potete, Sì, calmo non mi fra un ricordo. mesetto, Anche no? quello senza VIP. E ormai la Disney ha detto che i soldi ce li hanno, non ne frega più un cazzo. Anche il film di cui parleremo tra due puntate l'ha deciso di buttarlo fuori. Va bene, e se volete aggiungere l'ultime due robe, ultima roba, qualcosina? Oppure io direi che possiamo fermarci qua per Old e andatelo a vedere, oppure andate a vedere un vecchio suo film perché ne ha fatti di migliori. E andate a vedere Servant se potete, la prima stagione, la seconda è un po' più. E niente, vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima con una doppia puntata. Ciao ciao! Ciao!